Rock FM, Milano, Italy. 7:30 minuti primi di martedì 11 settembre, la settima puntata della ripresa di Pane, Burro, Rock and Roll. Venghi o si arrivenghi, no? Si offre la colazione migliore in circolazione. Un abbraccio, un saluto agli amici e alle amiche che compiono il passo e decidono di trasformarsi da ascoltatori passivi in ascoltatori attivi. Quest'oggi la decisione viene presa da Cristiano via mail a quest'ora del mattino. Come ogni santa mattina scrive nella sua focacceria ligure di Monza, però, a impastare e sfornare focacce, ascoltando a tempo di sano rock and roll. Oggi è il mio 32esimo compleanno, per cui vi ho scritto. Bravo Cristiano, auguri a te, aspettiamo un paio di chili di focaccia, via Locatelli 1, 20124 Milano, il solito, mannaggia. Già che siamo al reparto compleanni, perché non strombazzare anche Viola da Milano? Che quest'oggi ne compie 22 di anni e richiedeva personalmente una strombazzata. Hai visto Spadino che roba? Un gemellaggio, focacceria ligure, ragazza di Milano, dai 22 anni ai 32, così un decennio di ascoltato, eh? Va bene, andiamo con la musica che forse è meglio. Per festeggiare giustamente i due compleanni suddetti, un gruppo di... non mi veniva un termine che preferirei non usare, perché sarebbe un po' volgarotto, e sapete quanto qui a Pane, Burro, Rock and Roll vada un po' tutto tranne il volgarotto, vero Freak? At first I was afraid, I was petrified, I kept thinking I could never live without you by my side, but then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along, and from outer space I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my lock, I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door, just turn around, now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I. I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Be alive. life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Una volta che scatta una sezione fiati, Mr. Trombetta ci tiene a dire la sua. Ho cercato di spiegargli che le note sono sette e lui ne fa una sola, però Mr. Trombetta è convinto che con l'impegno si possa anche suonare con una nota sola. Va bene, tu fallo pure, Mr. Trombetta, tanto il contratto l'abbiamo fatto anche a te, quindi ti teniamo. La versione scanzonata di I Will Survive, per l'appunto, di Casa Cake. Tanti messaggi che quest'oggi confessano quanto il risveglio sia più difficile del solito. Non saprei perché, non saprei per quale particolare motivazione, ma capita a volte che il mood dei radioascoltatori sia simile. Quest'oggi vi sento belli. Anche adesso mi verrebbe un termine così giovane, capito? Mi veniva rincoglioniti, Spadino, però vorrei usarne una... Non c'è un dizionario dei sinonimi e contrari così di primo mattino, che così cambio. No, freak, non chiedo perché è solo peggiorare la situazione. Facciamo che per svegliarvi il buon Spadino mi esce la carta musica un po' robusta. E siete fortunati perché quest'oggi Black Sabbath ve li facciamo ascoltare nel verso giusto, perché se avessimo voluto avremmo anche potuto farveli ascoltare al contrario lì. Che roba! Nobody. sulle frequenze di Rock FM, Pane e Burro e Rock and Roll, la seconda stagione che punta alto. Capitemi bene, cari voi amici là fuori e amiche là fuori, puntiamo ad ascolti record. Per farci aiutare anche quest'oggi il nostro ospite Roberto Frecantore, bentornato Frecantore. Buongiorno, buongiorno amici, buongiorno DJ Ariele. Spero di contribuire all'innalzamento a livelli stratosferici degli ascolti del vostro share. La buona giornata è il vero obiettivo del nostro duro e sudato lavoro. Dalle 7 alle 9 del mattino, per iniziare splendidamente un nuovo giorno, Pane, Burro e Rock and Roll. Tentiamo di farvela svoltare la giornata. In mezzo a tutti questi fogli non riesco a raccapezzarmi, se mi passa il termine, di dove voglio andare a parare. Ci può aiutare? Ma naturalmente sì. Quest'oggi potremmo parlare delle piccole ma grandi, grandissime, enormi invenzioni, scusate, è l'emozione. Vede, te lo leggo negli occhi. Ah sì, sono così emozionato perché queste piccole ma grandi invenzioni sono alla portata di tutti noi. Chiunque può diventare un piccolo ma grande scienziato, quindi iniziare splendidamente una magnifica giornata con i consigli di Pane, Burro e Rock and Roll. Cioè lei vuole farmi credere che quest'oggi un amico, un'amica là fuori, o noi, o io stesso, potrei avere quella scintilla, quel bagliore, quell'intuizione che nasce dal nulla e mi fa brevettare un qualcosa che poi potrei anche chiamare Ariel volendo. Ma certamente, diventare così miliardario. Ma cosa dico miliardario? Milionario! Quindi studiamo la storia per aprire nuove porte per il futuro. Esatto, esatto, sempre avanti, sempre più avanti. Il microcosmo che cozza col macrocosmo. Questi esatto. I temi di Pane, Burro e Rock and Roll. E lo si dica in giro che non siamo qui a fare e girare i pollici, che lo si sappia, esatto. Che lo si sappia. Reparto invenzioni minori, da chi partiamo? Amici rocchettari e rocchettari in ascolto, vi propongo un salto temporale che ci porti nel 1857. Oi là là, che mai sarà successo? Il grande Joseph Gaiety. Mai sentito. Si potrebbe anche forse, con tutto il rispetto, dire mai coperto, però Joseph Gaiety inventò. Che cosa può aver inventato nel 1857 Joseph Gaiety? La carta igienica, amici ed amiche, la carta igienica. Questo implica, mi perdoni la lettura della cosa, che da prima dell'857 Non ce ne occupiamo, non è un fatto nostro. Beh sì, era carta occasionale. Era diciamo così, in pulizia. Secondo con lei, mezzi di fortuna. Questa rubrica può aiutare ad alzare gli ascolti di Pane, Burro e Io Rocchino. credo di sì, perché quello che conta è il nocciolo, è lo spirito. Joseph Gaiety, non avremmo potuto proseguire la giornata senza saperlo. Indispensabile. Joseph Gaiety e l'invenzione della carta igienica, prego. L'uomo d'affari americano inventa questo prodotto, la carta igienica, presentandolo in pacchi a fogli singoli. Comodo. Ma all'inizio non riesce a trovare acquirenti a causa, voi mi capite, dell'elevata, fra virgolette vorrei dirlo, concorrenza di vecchi giornali, riviste, libri, sì, cataloghi, insomma, è una specie di miniera feconda di carta per uso igienico. Come fare a convincere la gente a buttare via i giornali e a usare la carta igienica anziché usare le vecchie riviste? Esatto, molto, molto giusta questa domanda, perfetta, pertinente. Io per avrei esempio, puntato, sa su cosa? Sulla morbidezza. Sulla tenerezza. Sulla morbidezza, esatto. Esatto, rendere più morbida la carta. E infatti la carta igienica, dobbiamo dire, che sarà perfezionata dall'inglese Walter Alcock, o Alcock, che nel 1879 inventa, pensate bene, il rotolo con foglia a strappo. Comodo. E sfonderà quindi sul mercato americano, però solo nel 1884, quando due fratelli, attenzione al cognome, basta il cognome, Edward e Clarence Scott, ai, Scott, ai, i fratelli ai, Scott, ai. Ma non facciamo pubblicità neppure occulta o trasversale, presenteranno il rotolo bucherellato moderno realizzato con carta morbida e poi chiamato Scott Issue, dando inizio ad una multinazionale dell'usa e getta nell'ambito della carta. Se loro sono riusciti a farlo, perché non ci provate anche voi? Perché non ci proviamo anche noi? Non a fare i fazzoletti che già ci sono, a inventarne un'altra. Ma sì, spremiamoci. Qualcosa ci dovrà pur essere che non è stato inventato. La parola d'ordine di quest'oggi è spremiamoci. E non stiamo parlando dei vostri punti neri. Molto giusto. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. Streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. In the wells of silence, and the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, in tenement halls, whispering the sound of silence. Lo zucchero del vostro caffè. Simon & Garfunkel, The Sound of Silence. Pane, burro, rock and roll. Dolce come non mai, anche questa mattina. Per augurarvi la migliore giornata possibile ed immaginabile a tutti i nostri gruppi d'ascolto sintonizzati sulle frequenze di Rock FM. Dite a Marisa che l'amo, Pietro. Banda, ciao banda del buongiorno, scriveva. Un saluto anche a CCCP, un abbraccio a Vale, maestra rocchettara che va al lavoro. Saluta gli alunni che cresceranno a pane, burro, rock and roll. Brava! Tu sei brava! A proposito di misteri che attanagliano l'umanità, un amico chiede... No, questa non la leggo. Troppo volgare. Un saluto agli amici di Imola, Milano, Genova, gli amici toscani, gli amici di Como, di Carpi. Queste le città fortunate, coperte dal segnale aereo di Rock FM. Terracolo, il segnale terracolo di Rock FM, mi piacerebbe dire. E un saluto anche a coloro che ascoltano pane, burro e rock and roll grazie a www.radiorockfm.com. Nell'archivio ogni giorno trovate le puntate andate in onda, anche quest'oggi potrete riascoltare la settima puntata, qualche minuto dopo il termine della diretta. La buona musica a tenerci compagnia, a darci il giusto risveglio. Dum, dum, dum, dum. Talking Heads, ve li ricordate? Psycho Killer, che se l'ho aggiunto io. Guardalo quello che fa jogging, ciao! Gente che corre già al mattino. Bravi ragazzi, così vi vogliamo in forma, pronti per il futuro. Tracco, Talking Heads, Psycho Killer. Tracco, tracco, vedo che va di moda anche dai messaggi che inviate. È uno dei tormentoni di Pane, Burro e Rock and Roll. È il modo più semplice per un batterista per lanciare un ritornello, per fare un gran ponte. Tracco, tracco, tracco, tracco. E noi di Pane, Burro e Rock and Roll lo usiamo per lanciarci nella giornata, metaforicamente, come dovendo lanciare un ritornello. Tracu tracu, è onomatopeutico. 7:56 minuti primi, tra pochi minuti, tra 4 minuti, andremo con la sveglia delle 8 spaccate, grazie al meridiano di Greenwich che ci aiuta nella ricerca del tempo perfetto. E anche quest'oggi ci faremo tenere a battesimo dai Rolling Stone e dal loro capolavoro Their Satanic Majestic Request. Un disco, un brano alla settimana che così ci tenga compagnia. Settimana scorsa abbiamo sfruttato i Beatles, ci sembrava doveroso passare agli storici rivali Rolling Stone. Intanto ho salutato tutte le frequenze terracque di Rock FM, ne approfitto per salutare anche il buon Gianfranco che quasi quotidianamente invece ci ascolta da Napule mille culure, ed è il saluto che da Milano faccio fino là, non so come, non ho mai capito Gianfranco come tu riesca a sentirci, forse in streaming semplicemente grazie a RadioRockFM.com. Intanto ti stimiamo tantissimo, fa piacere sapere che anche in Campania qualcuno sia affezionato al segnale di Rock FM. Chissà in quanti siete già in ritardo, ragazzi, sono cose che capita, essere in ritardo è un'arte. Servizio a favore del radioascoltatore: il ritardatario ritardato. Non frapponete alcuna remora morale tra il problema e la sua soluzione. La scusa di oggi, interpreta il maestro di giustificazioni Roberto Fricantoni. Direttore, ancora una volta mi perdoni, io sono imperdonabile in realtà, non ho scuse per questo ritardo. Ma vede, venendo qui al lavoro, qui in ufficio stamattina, mi è capitato un fatto strano, anomalo, al quale io non sono abituato. Io solitamente non do passaggi agli estranei, ecco, dottore, e su questo ci si può contare, ecco, però mi sono quasi, come dire, impietosito, se così posso esprimermi, perché l'autostopista di turno aveva una faccia davvero stanca, davvero provata, e quindi ho accettato di darle un passaggio. Abbiamo fatto un po' di conversazione e questa giovane ragazza, peraltro anche avvenente, insomma, mi ha fatto un po' di pena. Ecco, io ho voluto assecondarla, l'ho portata dall'altra parte della città, sì, devo ammetterlo, insomma, ho fatto parecchi chilometri, l'ho portata nell'altra tangenziale perché andava dalla parte opposta, ecco, insomma, da uomo a uomo, direttore, lei mi deve capire, insomma, c'erano certi argomenti anche molto stimolanti, come dice, licenziamento per il ritardo, no, guardi, assolutamente, allora mi perdoni, faccio senz'altro dietro front, retromarcia, io non caricherò mai più nessuno, né di maschio né con le forme avvenenti di quella signorina. No, era maggiorenne, le l'assicuro. Il ritardatario ritardato. Non dimenticate, una buona scusa è quello che ci vuole per qualsiasi ritardo doloso. È un servizio a favore del radioascoltatore offerto da Rock FM. Mai più passaggi alle autostoppiste carine. E beh, che c'è?